Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 8 minuti. Buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia. Credeteci, non siamo contenti quando dobbiamo darvi conto di quelle terrificanti giornate di borsa delle quali vi abbiamo dato conto nei giorni scorsi. Anche se a volte vi sembra, almeno dai messaggi che mandate. In realtà siamo ben contenti di dire oggi che le cose vanno veramente bene. Lo abbiamo detto e lo avete sentito poco fa nel giornale radio. A Milano si guadagna intorno ai 5 punti percentuali, il FTSE All Share un po' meno, il 4,65. Bene fanno tutte le piazze finanziarie europee, bene fa l'America, l'euro in risalita sul dollaro e soprattutto la pressione sui titoli di Stato nella giornata di oggi si è allentata notevolmente. Frutto questo delle parole del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che, come avete sentito appunto anche poco fa nel giornale radio, ha rassicurato sulla volontà di intervento della Banca Centrale Europea. Naturalmente i banchieri centrali non lo specificherebbero mai al di fuori delle loro decisioni quali saranno queste modalità di intervento. Lo vedremo. Naturalmente è previsto un board, una riunione della Banca Centrale Europea per la prossima settimana. Questo è il tema che affronteremo soprattutto quando toccheremo il tema dell'andamento di borsa di oggi. Ci occuperemo di congiuntura italiana perché oggi sono arrivati dei dati dal Centro Studi di Confindustria e soprattutto delle valutazioni sul futuro abbastanza preoccupanti, ancora una volta. E in questa puntata parleremo anche noi di Olimpiadi. Ne parleremo ovviamente dal lato economico e ospiteremo anche un'azienda italiana che ha avuto un ruolo importante nella cerimonia che si svolgerà domani, ossia la cerimonia di inaugurazione. Infine, non si poteva non toccare il tema dell'Ilva di Taranto dopo che è arrivato il sequestro dello stabilimento, che è quello che tutti temevano. 349-238-6666 per i vostri SMS. Le notizie in breve. Le materie prime è sempre all'inizio di questa sequenza di nostre notizie. Il petrolio in rialzo oggi, il WTI, quello quotato a New York, guadagna l'1,09% a $89,94 al barile dopo essere risalito sopra quota 90. Il Brent, quello quotato a Londra, in guadagno dello 0,65% sopra i $105 al barile. L'oro è stabile sui mercati asiatici. Dimissioni di massa fra il top management di Nomura. Banca, come sapete, colpita da uno scandalo per insider trading che rischia di allargarsi e minare la credibilità, appunto, del colosso bancario giapponese. Tra l'altro il gruppo ha nominato Koji Nagai amministratore delegato al posto del precedente dimissionario e ha parlato di un'altra possibilità che nuovi episodi di insider trading possano venire alla luce. E quindi dopo lo scandalo LIBOR eccone un altro. Di spread e andamento dei titoli di Stato vi abbiamo detto, riassumiamo brevemente: la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è a 476 punti, il rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni è al 6,08%, interessante anche l'andamento dei titoli a breve, perché nei giorni scorsi si era segnalata una qualche preoccupazione per il rialzo dell'andamento dei titoli a breve, in particolare di quelli a due anni, perché quando il rendimento sale troppo è come se il mercato, per dirla molto brutalmente, scommettesse su un default più a breve per il paese. Dunque il calo è di 83 punti base, quindi molto forte, al 4,10% i rendimenti dei biennali. I rendimenti dei titoli di Stato spagnoli al 6,93% sotto il 7,15% e lo spread a 561. Tra l'altro il Tesoro oggi italiano ha venduto 2 miliardi e mezzo di CTZ a maggio 2014, raggiungendo l'importo complessivo pagando un tasso del 4,86%. Beh, Draghi vi abbiamo detto poco fa, ha detto passi straordinari dell'area euro negli ultimi 6 mesi, la Banca Centrale Europea è pronta a fare tutto il necessario per salvare la moneta unica e ha aggiunto a rafforzare, vi assicuro che lo faremo. L'area euro è più forte di quanto non le venga riconosciuto, dice Draghi. I firewall, ossia queste protezioni contro la speculazione, funzionano meglio che in passato. Intanto gli analisti di Citigroup vedono al 90% le probabilità che la Grecia esca dall'euro nell'arco dei prossimi 12-18 mesi, quindi praticamente sicuro. La precedente stima era tra il 50 e il 75%. Nel frattempo, l'economista tedesco Wolfgang Franz, presidente del Consiglio dei Cinque Saggi, in un'intervista a Repubblica dice ci sono richieste eccessive dei paesi dell'Europa meridionale che non aiutano, ma la Merkel deve sbrigarsi a prendere la situazione sotto controllo, a rassicurare i mercati. E occorre chiarire ai tedeschi e agli europei che un default greco aprirebbe rischi di contagio troppo pericolosi per l'Eurozona e per il futuro di noi tutti, non solo per Atene. L'Ilva, ci verremo, toccheremo il tema dopo le 18, il GIP ha firmato il sequestro degli impianti, ipotesi di disastro ambientale, ci sono possibili arresti, sono stati sequestrati 6 reparti dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto e domiciliari per 8 dirigenti. Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini dice che chiederà che il provvedimento di riesame avvenga con la massima urgenza. Insomma, ci sono posti di lavoro a rischio. Allora, è interessante, a proposito di Germania, questa dichiarazione di Sergio Marchionne in un'intervista all'Herald Tribune. Dice, con la politica dei prezzi di Volkswagen è un bagno di sangue. È interessante perché ci dà anche il modo di approfondire qual è la questione dello spread e perché sta tanto a cuore. Perché è una questione di prezzi, ma anche di finanziamenti. La Volkswagen si finanzia in Germania, si finanzia a tassi intorno al 2%. Può quindi offrire a chi va a comprare una Volkswagen anche nel nostro paese, anche in Francia, dei tassi di interesse, dei finanziamenti per le rate molto migliori. Secondo un articolo di Bloomberg di qualche giorno fa, un cliente della casa tedesca paga l'1,9% annuo, e parla di Francia questo articolo, per ottenere un finanziamento da 10.000 euro. Per un identico prestito ottenuto da Peugeot l'interesse all'11,6%, da Renault al 5,9%. Questo per dare una misura dell'asimmetria. Volkswagen che macina utili, primo semestre 8,8 miliardi più 36%. Mentre per Fiat, secondo la stampa russa, stanno slittando le ipotesi di lavoro appunto in Russia. E ora almeno una delle notizie su cos'è questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E adesso, ancora una volta, ci accuserete di essere contro la Sicilia, contro i siciliani. Però, scusate, devo dire che veramente le dichiarazioni del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Francesco Cascio, sono imbarazzanti, non ci sono altre parole. Perché? Perché Ieri vi abbiamo raccontato che per una questione di liquidità c'è un po' di ritardo nei pagamenti degli deputati dell'Assemblea regionale siciliana, 90 persone. Ebbene, che cosa dice il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Francesco Cascio? Il ritardo, tra l'altro, dovrebbe essere di un mese, quindi nemmeno questo granché, insomma, nell'ambito di una crisi di liquidità. Dice che l'assessore all'economia Gaetano Armao tratta l'Assemblea regionale siciliana alla stregua di un qualunque fornitore o di un ente, come se fosse un'offesa. Tra l'altro segnaliamo al presidente dell'Assemblea regionale siciliana che in realtà i fornitori vengono pagati con molto più ritardo, non certo con il ritardo di un mese. Quindi, per favore, beccatevi questo mese di ritardo e ringraziate che lo stipendio vi arrivi ancora. Andiamo al primo tema di questa giornata, che è essenzialmente la congiuntura italiana. Nella sua congiuntura flash, il centro studi di Confindustria ci dice che lo scenario globale è ulteriormente peggiorato e in Italia la diminuzione del PIL proseguirà. Annullate le probabilità di rilancio nella seconda metà dell'anno. Luca Paolazzi, direttore del centro studi di Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, mi sembra di capire che oltre ai problemi interni di questo paese che evidentemente permangono, anche perché alla fine è una cosa che diciamo sempre, le riforme, buone o cattive che siano, hanno bisogno di un po' di tempo per esplicare i loro effetti naturalmente. Mi sembra che all'attenzione ci sia ancora una volta anche il ritardo dell'Europa nell'agire contro la crisi. Assolutamente sì, questo ritardo, come abbiamo osservato fino ad oggi, fino alle dichiarazioni del Presidente della BCE Draghi, che hanno ridato fiducia nell'euro e quindi ridotto gli spread, avevano allargato appunto questi spread, che significa fondamentalmente in realtà un aumento del costo del credito per imprese, famiglie, uno scoraggiamento quindi a finanziarsi attraverso il credito, a fare acquisti importanti, vuoi rateali come le automobili, vuoi investimenti in case per quanto riguarda le famiglie, e per quanto riguarda le imprese invece i nuovi progetti, la cui redditività spesso rischia di essere più bassa degli interessi richiesti dalle banche. E questo diciamo è in fondo l'origine del riprecipitare in recessione dell'Italia prima e dell'area euro nel suo complesso poi, e adesso negli ultimi mesi osserviamo diciamo un netto deterioramento anche delle condizioni almeno nel manifatturiero tedesco. Questo dal lato della Germania. Poi magari una domanda sulla Germania la faccio, perché ieri è un tema che abbiamo toccato, insomma, perché potrebbe anche questo in qualche misura incidere su come si muoverà Berlino nelle prossime settimane, anche probabilmente su come si muoverà Francoforte a tutti gli effetti. Insomma, la congiuntura tedesca da questo punto di vista è centrale. E nei precedenti rapporti mi sembra che aveste sottolineato come se c'è un calo della domanda interna abbastanza netto, confermato tra l'altro dai dati di oggi dell'Istat, le vendite al dettaglio sono scese del 2% su base annua e dello 0,2% su base mensile, in parte l'export italiano sembra tenere abbastanza e anzi non dico rafforzarsi, perché la fase è quello che è, però ecco, resto su tenere. Sì, nel senso che per necessità e per virtù direi le imprese italiane spostano diciamo fatturato dal mercato interno a quello estero e quindi tendono a conquistare quote sui mercati stranieri. Detto questo però anche diciamo sul commercio globale osserviamo un andamento rilevato attraverso i responsabili degli acquisti delle imprese a livello globale di caduta nei prossimi mesi, proprio dovuto a quello che sta succedendo all'interno, all'interscambio all'interno dell'area dell'euro e quindi anche in fondo alle importazioni che l'area dell'euro attiva verso gli altri grandi mercati, grandi produttori globali, pensiamo alla Cina, agli Stati Uniti, eccetera. In questo senso l'epicentro del rallentamento rimane l'Eurozona. È vero, diciamo, che l'Italia cerca di compensare le difficoltà sul mercato interno con le vendite all'estero, però appunto se la ripresa americana diventa più fragile, se i paesi emergenti corrono meno, anche noi facciamo fatica a vendere su quei mercati, oltre al fatto che per fare ciò occorrono comunque diciamo, degli investimenti, e per fare investimenti occorre del credito, e quindi torniamo alla diciamo, casella base da cui siamo partiti, e cioè dal fatto che in questa situazione di mercato creditizio molto difficile e costoso, anche puntare sui mercati esteri per le imprese italiane che hanno ordini, quelle che hanno ordini appunto dai compratori stranieri, fanno fatica a soddisfarli. Sì, ne parlavamo tra l'altro proprio poco fa, citando il grande successo di Volkswagen, dovuto chiaramente a questioni di prodotto, come è naturale, ce lo dicono anche gli ascoltatori via SMS, però dovuto anche, rispetto ad altri paesi come il nostro, ma anche come la Francia, ad una certa asimmetria creditizia, se così possiamo dire. Da questo lato, al lato del credito, vedo che segnalate un accentuarsi della stretta. Attraverso un calo dei prestiti, l'ultimo dato mensile è di una diminuzione dello 0,7%, un cumulato a settembre di quasi il 3% di discesa, e anche l'ultima indagine rilasciata ieri dalla Banca d'Italia presso le principali banche italiane segnala una continuazione della stretta. In realtà, appunto, questa è, come dicevo all'inizio, una delle principali cause della recessione. Non è che le banche si divertano ovviamente a chiudere i rubinetti, sono costrette a loro volta a farle perché fanno fatica a finanziarsi, c'è un tendenziale calo dei depositi, c'è diciamo, un mercato interbancario nel sistema di Eurolandia bloccato, frammentato. C'è la difficoltà di emettere obbligazioni a costi ragionevoli, perché in realtà riescono a emetterle ma a costi elevati, quindi a loro volta poi devono chiedere per prestare fondi a imprese e famiglie tassi elevati. Questo diciamo, è il meccanismo principale di accartocciamento dell'area dell'euro insieme diciamo, a delle politiche di bilancio che si stanno dimostrando controproducenti. I risanamenti sono dovuti, sono anche diciamo, un modo soprattutto per l'Italia di rivedere il funzionamento della pubblica amministrazione, però se concentrati nel tempo e effettuati simultaneamente in tutti i paesi dell'area dell'euro, che sono paesi strettamente integrati sul piano commerciale e finanziario, fanno sì che ci siano spinte recessive da un paese all'altro e quindi un avvitamento. Anche perché la leva è prevalentemente fiscale. Sì, anche perché la leva è prevalentemente fiscale, certo, nell'immediato, e questo diciamo, ha effetti depressivi più forti che non agire su un taglio della spesa pubblica. In Italia si è fatto diciamo, molto anche sulla spesa pubblica previdenziale, però questo ha effetti di medio-lungo termine in termini di dimensione della portata dei risparmi. Viceversa diciamo, si fa più fatica ad agire nell'immediato perché questo in realtà dovrebbe comportare un modo diverso di operare la pubblica amministrazione, quindi una riforma della pubblica amministrazione stessa, e quindi i risultati sono diciamo, più lenti a essere ottenuti. Chiuderei con il tema, un accenno sulla Germania, anche se come dire, appunto, l'abbiamo solo accennato poco fa, perché ne abbiamo parlato lungamente ieri. Insomma, abbiamo detto che qualche segnale anche dalle loro parti inizia a vedersi, e quindi si inizia a coltivare la speranza che Berlino inizi a sentirci anche da questo orecchio. C'è, naturalmente, ipotizzare, come dire, un calo del PIL tedesco nel giro dell'anno mi sembra assai difficile, però qualcosa abbiamo visto di, non dico di preoccupante, però. Sì, c'è stato un calo di fiducia diffuso ieri, c'è stato, diciamo, all'inizio della settimana i dati dei responsabili di acquisto che per il settore manifatturiero hanno confermato numeri da recessione, cioè quindi di arretramento, sia diciamo nella produzione, sia soprattutto negli ordini, che significa produzione futura. C'è stato un calo delle commesse in edilizia piuttosto importante. In realtà, diciamo, questa è un'arma tra virgolette a doppio taglio, perché quando un'economia diventa in difficoltà, non è detto che diciamo i cittadini siano più favorevoli a aiutare gli altri paesi, e questo, diciamo, è il nodo politico da sciogliere all'interno della Germania. Quello che è interessante è che c'è, diciamo così, una maggior presa di coscienza da parte delle autorità tedesche del fatto che gli spread non sono qualcosa che agisce solo sui, come dire, sui governi e sulle autorità politiche degli altri paesi come sprone a fare le riforme strutturali necessarie a aumentare la competitività e quindi la crescita nel lungo periodo, ma ha un effetto immediato anche sulle economie e quindi come dire, un boomerang proprio su, per quei governi come quello italiano in questo momento, che sono virtuosi, che stanno cercando di fare riforme, che stanno cercando di ridurre il disavanzo pubblico e abbassare il rapporto debito pubblico PIL, perché di fatto, diciamo, l'aumento dello spread, invece che suonare come ricompensa degli sforzi che i cittadini stanno compiendo, diventa, diciamo, un danno e un allontanamento dal raggiungimento degli obiettivi. Questa presa di coscienza credo sia la cosa più importante, ancor prima e ancor più che la caduta in recessione eventualmente dell'economia tedesca. minuti. Di nuovo buonasera da Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri sms. Tra quelli che ci arrivano c'è anche qualcuno che ancora una volta si lamenta dicendo che ce l'abbiamo con i siciliani. Non ce l'abbiamo con i siciliani, ce l'abbiamo nella fattispecie col presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Cascio, il quale interviene in aula all'Assemblea regionale siciliana attaccando l'assessore al bilancio perché il suo stipendio da 13.000 euro al mese arriva con un mese di ritardo e dicendo veniamo trattati come i fornitori. Non ce l'abbiamo con i siciliani, ce l'abbiamo con Cascio nella fattispecie, perché i fornitori vengono pagati con molto più ritardo, e questo lo ripetiamo. È semplicemente una nota affinché anche i siciliani sappiano poi che classe dirigente portano nell'Assemblea regionale siciliana, e magari la prossima volta, al prossimo voto, ci ripensino. Veniamo ai mercati. Mercati eccellenti oggi proprio, col FTSE MIB che guadagna il 5,62%, il FTSE All Share il 4,91%, Parigi più 4,07%, Francoforte più 2,75%, tutto bene anche a Wall Street, il Dow Jones guadagna l'1,39%, il Nasdaq l'1,06%, lo Standard & Poor's l'1,26%. Tutto grazie alle parole di Mario Draghi. Ceo Condina, mi sembra che ci sia poco da commentare. Ceo Condina di Radio Cori, il Sole 24 Ore, poco da commentare su questo. Sì, ciao, buonasera. Buonasera. A tutti. Sì, Mario Draghi diciamo, è intervenuto oggi, fondamentalmente l'Eurozona si è giocato un altro jolly, forse uno degli ultimi che gli rimaneva con questo intervento del Presidente della Banca Centrale Europea, che ha sostanzialmente affermato che l'euro verrà difeso a ogni costo, che l'Eurozona ha fatto dei progressi straordinari, insomma ha tentato di porre uno stop all'ondata speculativa che era iniziata questa settimana e che non lasciava presagire nulla di nuovo per la tenuta dell'Eurozona. E così poi in borsa sono stati i titoli maggiormente penalizzati nelle ultime sedute a risalire, per esempio Mediaset che ha quasi guadagnato il 10%, così come le principali banche e assicurazioni con Generali, Unicredito, Monte dei Paschi, Intesa, tutte con rialzi attorno al 9%. Sì, com'era prevedibile in una giornata come questa, non c'è nemmeno un titolo negativo, quantomeno sul FTSE MIB. Benissimo, i finanziari, si diceva Generali più 9,3%, Unicredit più 9,21%, Monte dei Paschi più 9,04%, Intesa San Paolo più 8,8%, la Popolare Emilia Romagna più 8,5%, Mediolanum più 8,03%, UBI Banca più 7,9%. Bene, anche qualche industriale, Ansaldo più 7,74%, energetici come A2A più 7,45%, che nei giorni scorsi era stata letteralmente devastata. Fiat in realtà è la peggiore del listino, ne abbiamo parlato poco fa, di Fiat più 0,9%. Eh sì, stamattina prima delle parole di Draghi perdeva più del 3%, poi è risalita, chiude quasi con un rialzo di un punto percentuale, del resto la situazione del mercato dell'auto europea è decisamente drammatica anche a causa della recessione e Peugeot e Ford negli ultimi giorni hanno rivisto a ribasso le stime sull'intero esercizio, lo stesso numero uno di Fiat. Sergio Marchione in un'intervista all'Herald Tribune ha dichiarato di non aver mai visto così male la situazione del settore auto, l'unica che va bene in Europa è la tedesca Volkswagen, come tutti vediamo dai numeri di bilancio. Sì, numeri di bilancio, come si diceva, che sono stati forniti oggi e che adesso vado a recuperare. Nonostante appunto la crisi dell'Eurozona, utili record nel primo semestre, 8,8 miliardi di utili, un più 36%. Questo per quanto riguarda Volkswagen e il settore auto in genere. Telecom Italia più 2,81%. E anche questo è un altro titolo che oggi, diciamo, sicuramente la performance è di tutto rispetto, però considerato che è metà dell'indice bisogna cercare qualche giustificazione ed è quella dello scivolone di Telefonica, della concorrente che è azionista di Telecom Italia spagnola, che ieri ha deciso di non pagare il dividendo per andare a rispettare le scadenze sul debito. In più Telefonica ha tagliato le stime sui ricavi per quest'anno, ma segnali negativi per il settore TLC e Telecom oggi li ha scontati parzialmente, perché poi la performance resta positiva. Si parlava degli energetici, si parlava in particolare della fattispecie di un utility A2A, come si diceva, un guadagno del 7,45%, che è esattamente speculare a quanto ha perso ieri, mentre invece male era. Era l'utility di Imola, di Bologna, dell'Emilia Romagna, ieri è approdata un accordo per l'aggregazione con Acegas APS, che invece fa capo ai comuni del nord-est, a Trieste, è il polo aggregante, è la società più grossa, evidentemente gli operatori di mercato ritengono che verrà, seppur nella prima fase, penalizzata da questa operazione, perché era ha perso, come hai detto, è arrivato a perdere il 6%, invece Acegas durante la seduta è arrivata a guadagnare il 7%, quindi nonostante da parte degli analisti ci siano stime riguardanti le sinergie tra le due società e venga presentata l'operazione come valida per entrambe, oggi la sentenza del mercato è stata in chiaroscuro. Vedo tra i titoli, tra i peggiori in una giornata dove sono tutti positivi, abbiamo detto i Fiat più 0,9%, Tenaris più 2,12%, Fiat Industria più 2,27%, ST più 2,43%, possiamo dire che forse risente ancora dei conti tutto sommato. Eh sì, poi era anche cresciuta quando dopo i conti erano... la joint venture con Ericsson aveva dato risultati migliori delle attese, lì c'era stata una buona performance, poi era arrivata anche una performance meno brillante, oggi risente ancora sulla scia dei conti, come dicevi tu. Grazie, grazie a Ceo Condina di Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. Noi chiudiamo il quadro dei titoli oggi, come si dice ST Microelectronics più 2,43, il 2,6% lo guadagnano TOTS di Assorin e Parmalat, il 2,8% Telecom Italia, oltre 3 punti percentuali Campari e Pirelli, Azimut il 3,5%, Terna il 3,7%, il 3,8% Prismian e Buzzi Uni, il 3,9 Salvatore Ferragamo, oltre i 4 punti percentuali di guadagno Autogrill, la Popolare di Milano e Luxottica, Snam ed Exor il 4,4%, il 4,7% Impregilo e Mediobanca, il 4,8% Lottomatica, Saipem più 5,3%, Finmeccanica più 5,3% altrettanto, il 5,7% Atlantia ed Eni, Enel il 5,8% e nel Green Power il 5,9%, poi gli altri abbiamo detto sono bancari, quasi tutti bancari a parte A2A e Ansaldo che guadagnano il 7,45%, il 7,7%, sono tutti guadagni intorno agli 8 punti percentuali. Ci dite giustamente, perché Draghi non interviene ogni giorno meglio dell'albero degli zecchini d'oro? Adesso naturalmente questo sarà tutto da vedere, perché finora Draghi ha solamente parlato e ha sostanzialmente ribadito quello che aveva già detto domenica nell'intervista a Le Monde, nel quale aveva detto appunto la Banca Centrale Europea è pronta a fare qualsiasi cosa per salvare l'euro. Per quanto riguarda quello che può fare la Banca Centrale Europea, ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, perché le possibilità di movimento sono varie. Potrebbe ripartire l'acquisto di titoli di Stato di paesi cosiddetti periferici. Potrebbe per esempio valutare la Banca Centrale Europea invece molto, molto brutalmente di stampare moneta, e questo perché? Perché a quanto pare il mandato principale della BCE, come sapete, è quello di tenere sotto controllo l'inflazione, l'obiettivo è intorno al 2% e l'obiettivo è di tenerla intorno al 2% sia se va troppo in basso, sia se va troppo in alto, sia se cresce troppo, sia se cresce troppo poco. Quindi l'ipotesi è che, usando questo grimaldello, sulla base anche dei dati a venire sull'inflazione tedesca, si possa convincere la Bundesbank e quindi la Banca Centrale Tedesca eventualmente a appunto stampare moneta sostanzialmente, oppure appunto acquistare titoli di Stato. Vedremo che cosa succederà. È previsto un board, una riunione, un direttivo della Banca Centrale Europea nella prossima settimana, nella quale molti ripongono molte speranze, anche perché dal lato del cosiddetto scudo antispread ci toccherà aspettare il 12 settembre, ossia quando deciderà la Corte Costituzionale tedesca. Quindi attendiamo Draghi e vedremo che cosa succederà. Sui mercati di oggi ci dite solo movimenti speculativi, domani le vendite, vedremo, insomma ci sono state vendite per 4 giornate di borsa di fila, anche piuttosto pesanti, francamente speriamo di no. E ancora dice, siete fortunati perché la Merkel è in vacanza. Continuiamo a parlare d'Europa. Parliamo però di antitrust europeo, l'infinita vicenda della Tirrenia, della quale a lungo vi abbiamo raccontato. Le condizioni della privatizzazione sono sotto verifica dell'antitrust europeo e l'inchiesta sulla serie di aiuti di Stato è tuttora in corso e resta totalmente aperta e giustificata. Queste sono parole del commissario alla concorrenza, Joaquim Almunia, che è stato intervistato da Il Sole 24 Ore Radio Core, e l'intervista è stata realizzata da Antonio Pollio Salimbeni. Da una parte c'è l'operazione di fusione trattata a livello italiano, specificatamente dall'autorità di concorrenza, sulla quale non ho nulla da dire. Dall'altra parte è ben noto sia alle autorità italiane che ai responsabili di Tirrenia che c'è una lista di casi di aiuti di Stato ricevuti in passato da Tirrenia o da sue filiali, sui quali è in corso un'inchiesta a livello europeo. Si tratta di un gruppo di casi sui quali non si può decidere indipendentemente dall'esistenza o meno di una fusione tra Tirrenia e un'altra società. Inoltre, la Commissione ha anche già aperto un'inchiesta per verificare se nella procedura di privatizzazione ci sono degli aiuti di Stato che devono essere analizzati. Il messaggio che è stato trasmesso alle autorità italiane e in particolare al ministro Passera è che siamo d'accordo, si tratta di un caso italiano dal punto di vista della fusione, ma si tratta di un caso europeo per quanto riguarda gli aiuti di Stato, rispetto sia per quanto è accaduto prima della fusione, sia rispetto alla procedura di privatizzazione, sia riguardo alle nuove convenzioni di servizio pubblico. Quando c'è una privatizzazione, bisogna vedere se c'è stato un aiuto pubblico che l'ha accompagnata. In questo caso ci sono inchieste sugli aiuti di Stato che vengono dal passato e c'è la verifica su quanto avvenuto adesso. Così dunque il commissario Almunia, il commissario all'antitrust europeo. Noi adesso restiamo però sull'Italia e su una vicenda della quale ci siamo già occupati, ed è una vicenda che destava grande preoccupazione, preoccupazioni giustificate da quel che abbiamo visto oggi. Perché il GIP di Taranto, Patrizia Todisco, ha firmato il provvedimento di sequestro senza facoltà d'uso degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto. Senza facoltà d'uso. 2000 operai hanno già lasciato la fabbrica, si sono radunati in strada, hanno marciato sull'Appia. Qualche numero: l'Ilva di Taranto è uno dei più grandi impianti industriali italiani, conta 12.000 dipendenti, pesa per l'80% sulle attività del porto di Taranto. Le indagini per le quali si è arrivati a questo sono sull'inquinamento e di un'accusa di disastro colposo e doloso ai vertici dell'azienda. 8 persone sono ai domiciliari, tra l'altro, da oggi. Una perizia sanitaria ed epidemiologica ha stabilito un nesso causale tra la morte di 400 persone in 13 anni e l'inquinamento provocato dall'Ilva. A rischio ci sono 5.000 posti di lavoro con questo provvedimento di sequestro. Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore da Taranto, buonasera. Buonasera, buonasera. Sì, la città di Taranto è in questo momento bloccata da una grossa protesta operaia. Sono più di 2.000 perché nel frattempo agli operai del primo turno si sono aggiunti quelli del secondo turno, hanno attraversato tutta la città e adesso il presidio imponente è sotto il palazzo della prefettura. In queste ore la polizia giudiziaria sta notificando operativamente il provvedimento del GIP Todisco, provvedimento che si divide in due grandi aree, diciamo così. C'è una parte che riguarda le persone, ci sono 8 persone che vanno agli arresti domiciliari, di questi 5 sono le persone già indagate, fra cui appunto Emilio Riva, patron del gruppo siderurgico, e Nicola Riva. In più ai 5 già indagati si sono aggiunti altri 3 tecnici dello stabilimento. La seconda parte del provvedimento invece riguarda lo stop, il sequestro di una serie di aree del siderurgico di Taranto, ovvero parchi minerali, dove vengono stoccate le materie prime, le cokerie, gli altoforni, gli agglomerati, le acciaierie e la gestione dei rottami ferrosi. Per queste aree produttive il GIP dispone il fermo delle lavorazioni, lo spegnimento degli impianti, ma indica anche la necessità di effettuare queste procedure nel rispetto della massima sicurezza e della incolumità delle persone. E proprio questo passaggio sembra aprire in una giornata così convulsa e carica di tensione per Taranto qualche spiraglio, nel senso che gli impianti siderurgici sono molto complessi, richiedono del tempo, delle settimane per essere fermati, per essere spenti. Così come settimane richiedono per essere riaccesi. Certo, e in questo frangente e questa è la preoccupazione. Si spera di costruire un percorso positivo che porti ad attenuare gli effetti dirompenti di questo provvedimento. In che modo? Ecco, una prima tappa sarà già il riesame, che a giorni dovrà pronunciarsi sul provvedimento del CIP, perché i legali dell'azienda faranno ricorso, ci sono anche delle dichiarazioni del ministro Clini e del governatore Pugliese. Sì, dice Clini che chiederà il riesame, che il provvedimento di riesame avvenga con la massima urgenza, e parla di interventi urgenti di riqualificazione ambientale per un importo complessivo di 336 milioni, milioni di euro. Di oggi fra diversi ministeri e le istituzioni della Puglia. E Vendola invece dice che si costituisce, che fa costituire la regione parte civile, no? Sì, in un procedimento che poi successivamente ci sarà. Sì, il riesame è già previsto che si convochi, che sia si insedi nel giro di alcuni giorni, proprio perché è nota a tutti la rilevanza della questione. Il CIP ha poi nominato quattro persone, fra cui tre figure tecniche ed una professionale per la gestione di tutti gli adempimenti, cioè ha delegato a questi tre tecnici di sovrintendere alle fasi di spegnimento degli impianti e al blocco delle lavorazioni. Perdonami Domenico, quello che vorrei capire da te è che il GIP non avrebbe potuto eliminare quel senza facoltà d'uso dal provvedimento di sequestro? Certo sì, lo avrebbe anche potuto fare, però in questa fase il GIP ha ritenuto di adottare questa misura cautelare. Nei corridoi si afferma che questo provvedimento è probabilmente più duro di quello che ci si aspettava, perché i PPM fanno sì delle richieste, poi spetta al CIP vagliarle, accettarle o respingerle. Evidentemente nella riscrittura del provvedimento, da quello che trapela, il CIP è stato più duro, ha voluto accentuare di più alcuni aspetti. Ecco, però questo, torno a dirti, in questa situazione molto difficile si intravede questo spiraglio di poter comunque salvare in qualche modo lo stabilimento, le produzioni, ma soprattutto i posti di lavoro. È stata immediata, massiccia, imponente la reazione dei lavoratori. I provvedimenti che riguardano le persone e il sequestro degli impianti non erano stati notificati che a migliaia erano già tutti per le strade. All'Ilva si sta lavorando normalmente, tutti gli impianti ovviamente sono regolarmente in marcia, perché mi diceva un sindacalista non si possono fermare così come si spegne l'interruttore dell'energia elettrica, quindi tutta la ghisa è in produzione negli altoforni e occorrerà del tempo perché poi questo ritmo produttivo deceleri. Naturalmente. Ultima domanda, ti chiedo di essere breve, Domenico, ma perché si parla di 5.000 posti a rischio? Perché quello che dico è che no, come un provvedimento di sequestro viene fatto, poi a un certo punto lo stabilimento dovrà ripartire, no? 5.000 posti a rischio perché se questi impianti non dovessero più essere riattivati, 5.000 grosso modo sono tutti gli addetti all'area a caldo, ma l'area a caldo è anche il cuore dello stabilimento produttivo, dello stabilimento Ilva, e quindi è evidente che se si ferma il cuore si ferma tutto lo stabilimento, a parte poi le ricadute sull'indotto. Non a caso Confindustria dice sì 5.000 diretti, però questa è poi come un'onda concentrica che si allarga e finisce col coinvolgere pezzi importanti di economia non solo pugliese ma nazionale. Le 18:07 minuti, buonasera gentili ascoltatori, di nuovo da Simone Spezia. Leggiamo adesso una dichiarazione del numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che sposta l'attenzione dall'Europa per una volta e dice che il primo rischio nei confronti dell'economia mondiale è la doppietta deficit-debito, ma degli Stati Uniti. Questo quello che dichiara in questo momento Lagarde, tra l'altro della Global Investment Conference di Londra, la stessa dalla quale ha parlato il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, regalandoci quest'ottima giornata di borsa, lo ricordiamo ancora una volta, con il FTSE MIB a guadagnare il 5-6%, il FTSE All Share alla fine in chiusura il 5,25%. Ottima giornata anche dal lato dei titoli di Stato, i rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni sono al 6,08%, lo spread tra BTP e Bund a 473 punti, ottimamente anche dal lato della Spagna, dove i rendimenti dei decennali sono scesi sotto la soglia del 7%, quindi appunto una giornata importante. Vedremo poi naturalmente come deciderà di agire Draghi e come deciderà di agire la Banca Centrale Europea. Noi però torniamo a parlare di economia italiana. Attenzione, io vedo molti messaggi sul tema dell'Ilva. Vi dico di fare attenzione perché qua non si è sostenuto che non si debbano rispettare le regole ambientali e che ci sia un'ingiustizia da parte del GIP che ha deciso di bloccare le parti a caldo dell'Ilva di Taranto. Si sta, perché insomma queste sono decisioni che si rispettano ed è tra l'altro una questione molto delicata e che va affrontata seriamente. Ci siamo limitati semplicemente a raccontare la questione e a esprimere preoccupazione, questo sì e questo concedetelo, per i posti di lavoro delle persone che stanno là dentro. Veniamo dunque e continuiamo in realtà a parlare di economia italiana. È di un premio del quale vi abbiamo raccontato anche l'anno scorso, il premio Le Tigri del 2011, è arrivato alla terza edizione. Ci sono 60 imprese italiane che partecipano, piccole e medie. Oddio, in realtà medie, ce ne sono che arrivano fino a 300 milioni di euro di fatturato. Un premio assegnato da Tickmark, che è una società di revisione ed organizzazione contabile indipendente. Saluto Lelio Bigogno, che è partner di Tickmark. Buonasera. Buonasera, dottor Spezia. Allora, c'è qualcosa di molto vario, tra l'altro c'è anche una persona che ospiteremo tra poco, un'azienda che ospiteremo tra poco, che ha partecipato e che partecipa in maniera rilevante alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi. Mi sembra che, come al solito, emerga complessivamente l'idea che c'è un pezzo d'Italia che funziona, come i dati sul nostro export sembrano confermare. Guardi, concordo perfettamente con lei, anzi devo dire che quest'anno io ho molto apprezzato, anche essendo un vostro radioascoltatore, quello che Radio 24 ha fatto per le piccole e medie imprese, nell'ambito nel quale anche noi cerchiamo di fare qualcosa con questo premio. Noi abbiamo avuto modo di conoscere anche quest'anno oltre 60 aziende italiane tra i 5 e, appunto, come citava lei, 300 milioni di euro di fatturato, molto spesso sconosciute al grande pubblico, che tuttavia sono degli esempi di organizzazione, di internazionalizzazione, di ricerca e sviluppo e quindi di quell'eccellenza italiana che fino ad oggi, a nostro giudizio, ha sostenuto l'economia e che è una delle ragioni per cui abbiamo lanciato questo premio due anni or sono. È il vero classico italiano, quella che viene definita la multinazionale tascabile, no? La piccola o media impresa altamente vocata all'export e con una attenzione al mercato estero molto forte. Allora, Le chiederei a questo punto un esempio. Più avanti sentiremo quello appunto della Clay Paki, che ha una quota export al 95% e si occupa di illuminazione scenografica, ed è proprio in quest'ambito che è coinvolta in maniera fortissima nella cerimonia di domani sera. E però le chiedo di aiutarci a capire qualche altro esempio, perché qua stiamo parlando di un'azienda, come dire, che ha delle caratteristiche ben precise e molto forti. Però tra i vostri premi c'è anche quello, per esempio, per l'innovazione di processo, che se non sbaglio va ad un'azienda alimentare. Sì, esatto, va ad un'azienda alimentare. È andata un'azienda alimentare della provincia di Cremona, con una storia veramente molto molto interessante, di due grossi cambiamenti dal punto di vista del processo produttivo nello spazio di un paio di decenni, e che l'hanno portata da un fatturato di 10 milioni di quando l'azienda produceva solo latte fino ai 120 milioni di oggi. E questo è sicuramente un altro esempio di come si possa cambiare, non solo attraverso l'internazionalizzazione, ma appunto cogliendo dei momenti particolari del mercato, e quindi attraverso l'innovazione di processo andando a realizzare questi salti dimensionali. Ecco perché ritengo che l'aggregazione non per forza sia una risposta in termini generali. Da quando ha parlato il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. E dunque adesso andiamo a Londra. Quella che sentite di sottofondo è la canzone dei Muse, se non sbaglio, che è Survival, che è proprio l'inno ufficiale delle Olimpiadi. Giochi che si aprono domani, ospitati per la terza volta dopo il 1908 e il 1948 a Londra, fino al 12 agosto. La cerimonia di apertura domani sera, dunque, affidata al regista Danny Boyle, costo 27 milioni di sterline, 34 milioni di euro, costo dei biglietti fino a 2000 sterline. Saluto il nostro Dario Ricci, inviato a Londra di Radio 24. Dario, buonasera. Buonasera, buonasera Simone. Trovo qua, tra l'altro, proprio a Westminster, dove sta arrivando la fiaccola, si sta avvicinando a rapidi passi allo Stadio Olimpico per l'accensione di domani sera. Bella atmosfera, bell'entusiasmo in strada, direi. Bene, e saluto anche un altro ospite, che è Pio Naum, che è Sales and Marketing Director di Clay Paki. Mi corregga se sbaglio la pronuncia, forse Clay Paki S.P.A. Sì. Buonasera. Buonasera, buonasera anche a chi ci ascolta. Com'è? Clay Paki? Clay Paki. Clay Paki, molto sì. Semplicemente. È un'azienda bergamasca che è stata già attiva, tra l'altro, nei giochi di Pechino. A Londra, sì, a Londra avete una commessa da 3 milioni di euro? Beh, diciamo che questo è il valore, diciamo, dei prodotti che sono stati installati sul grandissimo rig dello stadio. In realtà poi è una fornitura che è stata fatta alla società che produce questo spettacolo, non è stata una vendita fatta agli organizzatori dei giochi olimpici, ma bensì alla società di produzione che ha curato la realizzazione tecnica dello spettacolo. Allora, avete 700 proiettori vostri, sì, no? Sì, è una presenza molto, molto, molto importante. Faccia conto che sull'impianto che illuminerà la cerimonia di inaugurazione ci sono circa un migliaio di proiettori, di fari, come si dice normalmente, e di questi ben 700 sono della Clay Paki, dell'azienda che io rappresento. Una grandissima soddisfazione, perché giocheremo la parte del leone in questa grandissima cerimonia. Allora, l'azienda nel 2011 fatturato a 56 milioni di euro, un più 70% sull'anno prima, quota export 95%? Eh sì, nel nostro caso praticamente l'azienda è sempre stata una grandissima ambasciatrice del Made in Italy, da sempre. L'azienda esiste dal 1976 e fin dai primi passi si è sempre orientata verso i mercati internazionali. diciamo che negli ultimi anni abbiamo avuto una crescita molto molto importante, ma sempre a favore dei mercati di tutto il mondo. Con il nostro Dario Ricci, inviato a Londra, lei resti con noi nel frattempo, Naum. La parola spread, ne parlavamo poco fa, tra l'altro, davamo il numero di oggi a 473 punti, è entrato anche l'intervento di Petrucci oggi. Eh sì, perché in qualche modo si chiede a questa Olimpiade anche di ridare un po' di coraggio, un po' di fiducia all'Eurozona, no? Importantissime le parole e le azioni soprattutto della Banca Centrale Europea, di Mario Draghi, ma anche una medaglia d'oro, Simone, magari non fa bene proprio alle tasche, magari il CONI tra l'altro ci dovrà anche pagare i premi, quindi però insomma l'obiettivo è quello di pagarne il più possibile e sicuramente fa bene al morale. Tra l'altro, ti segnalo l'arrivo proprio qui a Londra da pochi minuti, anzi qui a casa Italia, dove mi trovo, del ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture Corrado Passera, che dopo rilascerà delle dichiarazioni ai giornalisti. È arrivato anche il presidente Giorgio Napolitano, che alle 19:30 incontrerà gli atleti al Villaggio Olimpico. Poi, domani poi vede anche la regina, Italia. Vede anche la regina, no? O no? Sì, ci sarà un grande ricevimento, quindi una due giorni importante dal punto di vista dell'economia e dal punto di vista della politica, che del resto a Londra stanno di casa, insomma. Allora, la spesa complessiva per i giochi è stata di 9,3 miliardi di sterline, 12 miliardi di euro, 6,2 dal governo, 2,2 dalle lotterie e 900 milioni dal municipio di Londra. Posti di lavoro creati direttamente 50.000 stimati. Le opere che sono state realizzate, 10 chilometri di strade. Ogni giorno sono previsti 12 milioni tra viaggi e spostamenti, 15 milioni nei giorni di punta. C'è chi fa notare in maniera maliziosa, ma nemmeno troppo, che nonostante tutto questo grande investire, insomma, nelle Olimpiadi, il PIL inglese per il terzo trimestre consecutivo è risultato in calo anche abbastanza pesante, dello 0,7%. Certo, c'è l'effetto costruzioni da Olimpiadi che in parte è finito, e però ci sono segnali negativi anche al settore dei servizi, e quindi anche banalmente il commercio, che è esattamente quello che dovrebbe risentire positivamente delle Olimpiadi. Grandi costi anche per la sicurezza, 680 milioni di euro, 40.000 unità tra soldati, poliziotti e agenti privati. Da quel lato, Dario, come siamo? Si respira un po' di tensione? Ma sicuramente la tensione deriva anche dal flop di questo sistema di sicurezza per le note vicissitudini che hanno caratterizzato la G4S, la società a cui è stata appaltata gran parte della sicurezza, e che praticamente una settimana fa ha dichiarato candidamente di non essere riuscita a reclutare gran parte delle 10.000 guardie previste. A quel punto il governo ha richiamato d'urgenza di fatto in servizio 3.500 militari che hanno sacrificato sull'altare delle Olimpiadi la licenza che avrebbero dovuto godersi, visto che in molti casi queste unità sono impiegate sui fronti, soprattutto sul fronte afgano, e la presenza dei militari si vede molto attenta e presente proprio in tutte le fasi della vita della città. Va sottolineato, Simone, a proposito di quello che dicevi rispetto al calo del commercio e del commercio minuto, è che la grande sfida dell'organizzazione olimpica non è solo quella di attirare turisti, ma anche di evitare la fuga dalle Olimpiadi dei residenti abituali. È una voce passiva che spesso non viene considerata, soprattutto nei report che anticipano in modo spesso fin troppo entusiastico l'arrivo della fiamma olimpica nelle città ospitanti. Naturalmente, perché l'istinto di fuga c'è sempre. Allora, per chi risiede nella città, ovviamente. Allora, Made in Italy alle Olimpiadi vale 100 milioni di euro, c'è la Mondo che è leader globale nelle pavimentazioni sportive, la decima Olimpiade consecutiva come fornitore ufficiale, Mapei in partnership con Mondo fornisce gli adesivi per le piste, è presente ai giochi dal 76, Delta 3 torinese sviluppa la piattaforma video e distribuzione del segnale, Metra bresciana fornisce profilati metallici per le tribune, Clivet bellunese impianti di climatizzazione, Beretta 48 tiratori utilizzeranno i fucili Tecno Gym, partner ufficiale, 750 attrezzature negli impianti di allenamento, Piscine Castiglione nel nuoto e Tessitura Virgilio Tajana i tessuti tecnici per molte nazionali, compresa la nostra. Ma noi stiamo parlando della cerimonia di apertura e quindi riprendiamo con Pio Naum della Clay Pachi, che appunto fornisce i riflettori. Ci dà, se riesce, in un minuto e mezzo di storia aziendale. Come nasce un'azienda come la vostra? La Clay Pachi è nata nel 76 intorno a un'idea del fondatore che faceva a quel tempo, suonava in una piccola orchestrina, di fare i primi effetti luce, chiamiamoli, quelli che venivano chiamati una volta gli effetti stroboscopici, per le discoteche, perché in quei tempi si suonava nelle discoteche. Da quel progetto è nato è cresciuta via via l'azienda, che per tutti gli anni 70 e 80 era specializzata soprattutto nel mercato dei locali di intrattenimento. Poi ha cominciato a sviluppare una tecnologia estremamente sofisticata con un pesante uso dell'elettronica, quindi dei sistemi computerizzati, ed è attraverso questi nuovi prodotti di altissima tecnologia entrata nel mercato più importante della televisione, dei teatri e soprattutto delle tournée musicali. Ma ci dica una cosa, qual è la cosa che ci stupirà di più del vostro lavoro sui riflettori della serata di questa sera? Vedrete questi 500 piccoli apparecchi che consumano solo 200 watt e che faranno dei fasci di luce estremamente luminosi che sembrano dei laser, ma non sono dei laser. È un prodotto che si chiama Shampi, che sta avendo un enorme successo, un'enorme innovazione nel mondo dello spettacolo, perché con pochissimo consumo di energia si riescono a fare degli effetti luce che una volta richiedevano degli apparecchi mastodontici, pesantissimi e molto anche con un grosso consumo di elettricità. Allora, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Vi voglio parlare in chiusura di questo capitolo olimpico, perché è sempre un aspetto economico, di una marketing ambush, ossia un'imboscata di marketing. There are no grand celebrations here. No speeches. Quello che sentite è uno spot realizzato dalla Nike, che non è sponsor olimpico. Lo sponsor olimpico è l'Adidas. E allora che cosa ha fatto Nike? Sta mettendo in onda uno spot nel quale si vede la parola London in qualsiasi posto tranne che a Londra, cioè città che si chiamano Londra negli Stati Uniti, piazze che si chiamano Londra e così via, e gente comune che pratica sport di qualsiasi tipo, compreso il rugby, che non è disciplina olimpica. Si dice nessuna grande cerimonia, nessun discorso, nessun riflettore acceso, ma ci sono grandi atleti. Siamo portati a pensare che la grandezza è per pochi, per le superstar. In verità la grandezza è per tutti. Non si tratta di abbassare le aspettative, ma di alzarle per ognuno di noi, perché la grandezza non è solo in un unico posto, in un'unica persona. La grandezza dove ci sia qualcuno che cerca di trovarla. Così la Nike sostanzialmente contro la Adidas e contro gli organizzatori delle Olimpiadi. Io ringrazio Dario Ricci, nostro inviato a Londra, Pio Naum, Sales and Marketing Director di Clay Pachi S.P.A. per essere stato con noi. Ringrazio naturalmente, come sempre, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Pietro Lacorte in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.